Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è Non manca nessun pezzo. Non siamo affatto un puzzle e soprattutto non siamo un puzzle con pezzi mancanti. Ogni giorno cerchiamo di risolvere problemi. Voglio organizzarmi meglio. Voglio essere un amico migliore. Voglio sentirmi meglio nel mio lavoro. E via così. E ogni giorno probabilmente ripetiamo lo stesso errore. Secondo studi recenti, infatti, esiste una scorciatoia mentale che ci frega di continuo. Quando cerchiamo di risolvere un problema, ci chiediamo cosa posso aggiungere qui. Per essere organizzati meglio, impieghiamo ore a creare un sistema nuovo di zecca che poi chiede tempo ogni settimana per essere implementato. Lo so perché un paio d'anni fa ho seguito addirittura un corso online per creare il mio piano perfetto. È stato interessante e la presenza allo stesso corso online della mia amica Sara, ciao Sara, lo ha reso divertente. Però ha funzionato? Nemmeno per sogno, il mio piano perfetto non è durato neanche un giorno. Capita anche a te? Se il nostro istinto è di aggiungere impegni all'agenda, alla lista delle cose da fare, alle aspettative che abbiamo su noi stessi, non c'è da sorprenderci se poi ci sentiamo travolgere. Se smettessimo di pensarci come un puzzle, a cui oltretutto manca almeno un pezzo, e provassimo a chiederci, e se fossi già intero, intera? E se, anziché chiedercelo, ci sentissimo interi? Yoga per me è pratica di interezza. Nei primi minuti dell'audio che ti ho regalato la settimana scorsa, La magia del respiro, ti guido all'ascolto del respiro spontaneo. L'attimo in cui il tuo respiro non è più in posa. Il momento in cui hai finalmente disinnescato ogni giudizio. Ecco, ad esempio, quello è uno stato di interezza. Vuoi sperimentare insieme a me la tua interezza? Yoga del potere, prendersi il lunedì. In diretta è lunedì 19:30-21 con le registrazioni a disposizione per una settimana. Oltre ad abbracciare il giorno più odiato della settimana, anziché subirlo, si cambia il punto di vista su diversi aspetti, ciascuno a modo proprio. Questo è uno dei feedback recenti. Non puoi neanche immaginare quanto sia stata provvidenziale la pratica di ieri sera. Mi ha salvata da un embolo oggi e probabilmente da domani cambierà la direzione di alcune cose. Grazie. Vuoi partecipare anche tu? Scrivimi. Tutti i martedì di gennaio, in diretta dalle 19:30 alle 21 con le registrazioni a disposizione per almeno una settimana, arriva la nuova edizione di Imposizione strategica Yoga per abbracciare la postura. Esploreremo quattro differenti archetipi e come mescolarli ed usarli. Lo faremo ispirandoci a quattro arcani maggiori dei tarocchi. Non c'entra la divinazione, ma la suggestione del simbolo. Soprattutto scopriremo come vivere l'archetipo e come utilizzarlo per abitare il nostro posto nel mondo nel modo più completo. Vuoi saperne di più? Contattami. Ho ancora tre posti liberi per le consulenze individuali online per i prossimi mesi. Incontri personalizzati per sbloccare gli aspetti che senti di voler muovere, che siano articolazioni, relazioni, emozioni. Attraverso lo yoga, l'embodiment e la potenza dei simboli. Vuoi regalarlo o regalartelo? Scrivimi. A proposito di regalare yoga, qui c'è il link con qualche idea. Sempre a proposito di regali yoga, la lezione aperta online di martedì 6 dicembre 19:30-20:30 dedicata al yoga del potere, intenzione e azione è al completo. Ma se vuoi partecipare puoi ancora rispondere a questa mail perché ho deciso di mettere a disposizione altri due posti, ma solo due. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Adrienne Marie Brown, dal suo Pleasure Activism, The Politics of Feeling Good, l'attivismo del piacere, le politiche del sentirsi bene. Il piacere non è uno dei vizi del capitalismo. È ciò per cui i nostri corpi e il nostro essere umani sono strutturati. È la vitalità e il risveglio, la gratitudine e l'umiltà, la gioia e la celebrazione dell'essere miracolosi. Un abbraccio grande, intero e miracoloso. Laura.